Radio Wombat. E benvenuti alla 27ª puntata di Fuoco alle Polveri qui su Radio Wombat. Ciao Guido. Ciao Marchino. Ehi. Ciao Andre. Ciao Bri. Ciao. Ciao, si sente? Ci siamo? Ci siamo tutti? Ci siamo tutti. Carichi. Come sempre, formazione mista. Ma la mista ci piace assai, no? La mista rivista. Squadra che vince non si fa. L'hai vista la mista? Allora, il 27 di oggi è dedicato a qui presente Marchino. Ciao. 27. Colme il numero usato in Formula 1 da Villeneuve e successivamente da Jean Alesi. Quale Villeneuve? Gil. Sul pezzo, sì, sul pezzo. Sul pezzo. 27ª puntata, dunque. Finite 2 settimane di fuego per tutto il movimento, insomma, dove per movimento intendiamo veramente tutti i compagni. Passato il festival di teatro sociale, passato il festival di Inchiostri Ribelli, che è andato molto bene. Meraviglioso. Momenti felici. Sì. Momenti felici e freschi. Un po' di stanchezza che portiamo nella voce. Sì. Un po' di stanchezza ce la portiamo dietro. Davvero. Soprattutto chi ha dato veramente il 100% e lo ringraziamo, anche i qui presenti. Oggi magari rievocheremo qualche momento, non so, tiriamo le fila, quello che vogliamo. Alla fine oggi è un po' free. È un po' free, nel senso che chiacchieriamo di quello che vogliamo. Bri sicuramente ha qualcosa di importante da dirci. Spero che Maldonado ci sia oggi, se non c'è... Beh. Più abbiamo l'ora dei Balcani che c'è. E in più abbiamo anche una... Non lo so, un mio intervento per non vi svelo niente. Oh, ma ho portato una cosina anch'io. Grande, perfetto. Ma vediamo dopo. Sì. Quindi davvero rimanete collegati qui su Radio Wombat. Sì, ora ve lo passo. Fuoco alle polveri, sì. O lo metti qua e poi lo leggi. Mandiamo il primo pezzaccio. Chi lo manda? Oggi grande rivoluzione qua in regia, perché la regia si moltiplica, cresce. E oggi a mandare i pezzi ci penserà Guido. Col suo nuovo programma misterioso. No, il mio programma, super programma. Allora, anni 90 o prima? 90. Anni 90. Dai, sì, anni 90. Prima cos'è? Attrezzatissimo, ragazzi, attrezzatissimo. Anni 90 o prima? Era facile la domanda, abbiamo già risposto. Si può anche dopo? C'è anche dopo? No, c'è anche, sì, poi dopo c'è anche dopo, ma insomma, io ora ho due canali, uno anni 90, uno prima. Quindi andiamo con Have You Ever The Offspring. Pass around you like there was only show around your neck. Sono un po' stanchino. Credo che tornerò a casa ora. I ruggenti anni 90. Un po' presto per tornare a casa. Roar. Ok. Allora, a proposito di Offspring, sì. Ho visto ieri una panda verde che gira per Firenze, che ha gli interni degli Offspring. No. C'è una panda vecchio modello che ha i sedili rivestiti con lo stemma degli Offspring. Col teschio in fiamme. Sì, sì, sì, col fuochino. Bellissimo. Super serio. Chi l'ha vista ci può telefonare qui a Radio Wombat. Darci il numero di targa così al numero di sovrappensione. Avete letto bene. E ok. Allora, qualcuno ha voglia di partire? È tutto in mano tua, fratello. No, no, è tutto in mano mia. Sì. Va bene. Allora, farò così. Farò abbassare subito il livello della trasmissione. Dai. Con l'uro dei Balcani di oggi. Cioè, lo faccio andare subito, così abbassiamo e non si può che risalire dopo in qualità, ok? Siete pronti, però? Ma ricordiamolo chi è, che cos'è l'urlo dei Balcani, da chi, per chi non ci... Allora, l'urlo dei Balcani è la sottorubrica della rubrica Detti dal Mondo. Un livello di complessità ormai... eccelso, proprio. quindi l'urlo di Detti dal Mondo, detti da tutto il mondo, l'urlo dei Balcani in particolare si sofferma su ciò che ci viene dai nostri vicini qui nei Balcani. Esatto, e oggi è speciale, sono veramente curioso di vedere le vostre reazioni, che potrebbero essere risate o infamate. Dunque, lo sentirai sulla tua pelle? Sentirò sulla mia pelle, quindi ecco a voi l'urlo dei Balcani. Vado, André? Prego! Via! L'inizio mi piace parecchio. Sempre, sì. Eccolo. Signori! Yuri! E eccoci qua anche oggi con l'uro dei Balcani. Oggi vi porto in Ungheria e sentiamo Irina che cosa ha da dire. L'hai trovata io. Meraviglioso. E senti, Irina, ma che cosa vuol dire? Ah, un detto che condividete con noi. Ma tu come, cioè, sei ungherese o com'è la tua discendenza? Certo, sono ungherese da parte di scheda madre. Ci vediamo la prossima volta col Real Urlo dei Balcani. Ciao. Su. Un applauso, Guido. Questa è Irina, che è anche il nome che ho dato al mio computer, dunque. Ah, perfetto. Allora, ho promesso veramente a due volte l'uro dei Balcani, non riesco mai a farlo. Dunque, Google Translate mi è venuto in soccorso. Allora, sentiamo. Ho già partito la base. Oi. No, stamattina mi sono veramente divertito. Gridevo da solo. Allora, bene, ho toccato il fondo, possiamo solo risalire. Capì? Intendevo questo. Allora, io stacco e riattacco l'elettricità. Potremmo anche fare la prossima volta, mettere al tuo posto Irina. Il computer. Irina. Benvenuti alla 28esima puntata di Fuoco alle 28 come? Ok. Però non si pronuncia lui, Chi è? Io? Sì, no, vai, certo, non c'è problema, scriviamo proprio tutto il testo e poi ci pensa Google Translate, che c'ha la voce. L'avevo provato anche in macedone, ma non so perché veniva malissimo, quindi ho ripiegato sull'ungherese. Allora, molto bene, a cosa diciamo ora? Nel senso, parliamo un po' del festival. Momento, ecco, momento felice ancora col festival o un momento invece triste? No, momento felice, parliamo del festival un pochino. Parliamo del festival, che è andata questa 4 giorni di Inchiostri Ribelli, che è partita giovedì, il primo, in Polveriera, che direi è stata una giornata splendida. Sì. Hanno i ragazzi del collettivo Ribellarti i ragazzi e le ragazze del collettivo Ribellarti hanno dipinto, fatto i nuovi murales sul loggiato, lungo il loggiato del chiosso di Santa Pollonia. E niente, passate a vederli perché spaccano. E cosa... Solo peraltro a tema è la solitudine, quest'anno è stato un po' il filo conduttore di tutta l'esperienza di Ribellarti e di questo festival Inchiostri Ribelli, non di meno di questo muro di cui stiamo parlando, che comunque approfittiamo per dire a chi non lo ha chiaro, vuole essere una piccola galleria di arte contemporanea, una volta all'anno in occasione di Inchiostri Ribelli, è già la seconda volta che succede. Ripitturiamo il muro di bianco e lasciamo spazio a nuovi artisti che stanno lavorando sulle pareti e sulle tele in questa città per trovare insomma un luogo di espressione pubblico. Esatto, quest'anno abbiamo lasciato, cioè insomma è stato lasciato spazio ai giovanissimi alla fine dei conti, e questo è molto bello perché non sempre capita di poter fare una propria opera nel centro di Firenze, anzi. Sì, infatti piuttosto che cercare dei nomi infatti già qualche modo accreditati o noti a chi segue la street artist, è stato scelto di dare spazio a chi partecipa a questo collettivo Ribellarti, un collettivo che esiste da pochi mesi e di cui comunque abbiamo lungamente parlato anche nelle scorse trasmissioni e di cui potete trovare in giro per la città anche fotografie, racconti, scusate la voce, sono bassissima oggi, che sono molto interessanti, insomma, e racchiudono poi quello che è il concetto del movimento in sé. E devo dire che avevano scelto appunto il tema della solitudine in tutte le sue sfaccettature, cioè quindi dal senso negativo che ha la solitudine come reclusione, come isolamento, come emarginazione, alla solitudine, al superamento della solitudine. E devo dire che questo festival è stato un esempio di fatto di ciò che, cioè, mentre questi artisti e tutte le altri percorsi mettevano in campo, affrontavano il tema della solitudine con le loro varie arti, allo stesso momento il festival si è configurato come un momento importantissimo di superamento dello stato di solitudine in cui ci troviamo, a causa dei ritmi della società, a causa del lavoro, tutte le stronzate, quindi sia come durante 4 giorni come momenti di socialità vera, cioè di condivisione, di stare insieme e divertirsi insieme e conoscere insieme, ma anche indirettamente, perché tutto il ricavato del festival è stato mandato in benefit per coprire le spese legali dietro le situazioni che abbiamo tenuto a proprio non far sentire sole, a dimostrare la nostra solidarietà, mandando i nostri aiuti, la nostra solidarietà appunto per affrontare le beghe che questo stato ci propina. Non a caso infatti in Polveriera il primo giorno è stato presentato il libro Alice nel paese delle Lomandine, no? Che era appunto il progetto di queste detenute che hanno partecipato, hanno avuto la fortuna di poter partecipare all'interno del carcere di Sollicciano ad un corso di scrittura creativa, e purtroppo le detenute non sono state portate a parlare del libro, ma sono venute l'insegnante e anche un insegnante nella parte maschile del braccio, il ramo maschile, esatto, di Sollicciano, esatto, del braccio di Sollicciano, sì. E è stato molto interessante parlare con loro anche appunto sulle condizioni che queste donne si trovano, queste donne e queste persone si trovano a vivere, no? E niente, appunto il libro si chiama Alice nel paese delle domandine, perché le domandine sono questi fascicoli che loro devono, cioè non fascicoli, questi fogli che loro sono devono dei moduli, compilare, esatto, dei moduli per qualsiasi cosa, esatto. Richiedere una visita medica a ricevere l'educatore, appunto, spiegavano per esempio. Sì. Ma e a proposito di solitudine, a me ha colpito molto quando il tema è naturalmente emerso nel corso della discussione. È stato detto che il senso di solitudine in carcere è dato da un'assenza di solitudine, o almeno questa è stata la testimonianza di chi stava lì da insegnante, a dire che non esiste un momento di solitudine realmente in carcere. E che Diciamo di raccoglimento, di intimità, di sì, privacy. Sì, sì, sì, non ce l'hai mai, sei sempre in camera con qualcuno, certo. Anche quando vai via da un'altra parte magari... dolorosissimo, nonostante quando in realtà ci si trova a vivere circondati, anzi fin troppo a stretto contatto con altre, forzatamente con altre persone. Ci parlavano di come dovevi calibrare i passi nell'ora d'aria per camminare in un ritmo che fosse conforme a quello di altre persone che vogliono camminare. E si parla di ritmi di 8 passi, giro 8 passi. E anche tanto due velocità di marcia diverse significano ostacolo, impossibilità di andare da solo su semplicemente 8 metri di terra a sgranchire le gambe. A me questo ha colpito molto, insomma, quando si parlava di questa eccezione di solitudine che comunque spesso è mancante in quelle visioni che vengono portate da Rivella Arti e da chi si è mosso all'interno di questo festival. Ci sembra un po' scontato avere modo di stare da soli con noi stessi, a noi spesso, insomma, in certe situazioni non è così, anzi direi quasi sempre, a quanto ho capito. Quindi una sorta di arma a doppio taglio la solitudine, no? Sicuramente un argomento complesso, sì. Si vede anche da come è stato sviluppato sui muri e nelle opere d'arte che sono state esposte in questi 3 giorni del festival. E a proposito, prima dicevamo dei benefit, senza stare a ridirlo perché anche qua lo abbiamo già a lungo detto, segnaliamo soltanto che sulla pagina Facebook e sul sito internet di Inchiostri Belli ci sono anche le fotografie dei pannelli che erano stati preparati con dei comunicati, degli articoli, delle fotografie che vogliono spiegare le 3 cause per le quali questo festival è andato a supportare questo festival. Una manifestazione antifascista a Magliana a Roma, che è stata repressa sul momento e poi con denunce, una perquisizione che ha portato a interventi nell'ex asilo occupato di Torino e anche sul locale per quanto riguarda lo sgombero di Via Toselli dell'anno scorso, che ricordiamo anche essere stato fra l'altro il posto che ha ospitato le 2 giornate di tatuaggio dell'anno scorso del Festival Inchiostri Belli. Era un luogo, anche qua ne abbiamo parlato, abbiamo anche invitato i compagni di Toselli nella prima o seconda puntata, se non ricordo male, a parlare con noi. Sì, sì. Abbiamo modo anche lì, insomma, di dire a chi vuole approfondire di ascoltare il podcast sul sito di Radio Wombat, prima o seconda puntata, c'è un'intervista a Toselli, a che cosa è stata quell'esperienza, insomma. E noi ci siamo e ci teniamo a raccontarlo e a raccontare queste cose, perché se non siamo noi a raccontarle, le raccontano soltanto chi ci va male, quindi sicuramente non rende giustizia al valore che c'è dietro a certe pratiche, a certe persone, a certi ideali, insomma. Molto giusto. E anche sì. Avrete modo di seguire nei prossimi giorni cosa è stato quest'anno Inchiostri Belli, perché è mancato, usciranno video, fotografie, abbiamo raccolto un sacco di bel materiale. Perché sempre poi in tema di solitudine, anzi di contro solitudine, appunto anche quest'anno itineranti Inchiostri Ribelli nei vari spazi. Purtroppo Toselli, appunto, di cui parlavamo ora, non c'è più, però lo abbiamo ricordato, quindi c'era spiritualmente. Però già i giorni, oltre alla Polveriera, abbiamo avuto anche Viale Corsica e Next Emerson e Via del Leone / Piazza Tasso, che poi in realtà si è allargato poi a tutta la piazza, appunto c'era di tutto, c'erano anche i banchini in Piazza Tasso, c'era anche il cosino per far disegnare i bambini in libertà, quindi su un foglio molto lungo. Io ci ho disegnato tantissimo. Ecco, bambini, oh Marco, ecco, nel senso, c'era pure la libertà. Sì, è stato bellissimo perché alla fine bambini purtroppo non ce n'erano, ma tutti noi eravamo a disegnare contentissimi su quel foglio, è stato bellissimo. Il tempo ci è stato favorevole, anche se era calduccio. E i tatuaggi sono stati bellissimi. E i tatuaggi comunque, sono stati davvero. Andate a vedere le foto perché sono veneti bellissimi. Ma infatti ce ne sarebbero da dire tante altre. Forse lo facciamo. Intanto mettiamo una canzoncina. Sì, ce l'hai, Guido? Spezziamo un po' il nostro parlare. Sì, che chiacchieroni che siamo oggi. Eh no, va bene, così. Allora, se prima vi avevo dato una scelta, andiamo prima. Love is Hurting Things, Gloria Ann Taylor. Non c'è scelta. No, prima. rieccoci qui su Radio Wombat, Fuoco alle Polveri, 27esima puntata. Siamo arrivati ormai a giugno. Questa era Love is Hurting Things di Gloria Ann Taylor. Un pezzo molto lungo e quindi lo facciamo sfumare piano piano. Eccolo, ah, con delicatezza. Bravo, mi piace quando sei così delicato. Ebbene, stavamo dicendo? Perfetto. Stavamo raccontando un po' come è andato in Chiasso i Ribelli di quest'anno. Questi 4 giorni abbiamo ripercorso la prima giornata in polveriera, appunto, è andata molto bene. Poi i concerti hanno chiuso, i Jackson Pollock e i Re Cane, che e suo marito siamo fan di casa ormai. Totalmente fan, la ragazza batterista, bravissima. Foga un sacco di gente. Sì, sì, salutiamola, ciao Federica. Grande, grande. Ciao. Sì, tra l'altro è l'unica batterista cantante in un gruppo, suppongo, perché del mondo. Non so come puoi avere la forza di fare quel tipo di musica. Jack White ne lo fa nei Dead Weather. Ma è donna? Grande. No, è un idolo. È un idolo. Va bene, giusto, sì. E poi no, dai, anche i ragazzi di Via del Leone quando esatto. hanno suonato sono stati 2 concerti, ecco, brava. Anzi, no, 3 concerti. A parte, citiamo anche la puntata di Mortal Wombat dal vivo, è stata una roba spaziale, dal giardinetto di Via del Leone, hanno stata montata una regia estemporanea e hanno fatto la diretta di Mortal Wombat. Risentitevi il podcast perché hanno fatto volare su tutto. E poi concerti che hanno scacciato tutti i clienti del ristorante a fianco. Ma meno male. E i mali dal nostro cuore. Sì, davvero, è stato bellissimo. A parte è stato bellissimo il posto, perché ovviamente è lì in Via del Leone, c'è il giardino fuori che è bellissimo, è molto raccolto, però si presta benissimo per i concerti. E hanno suonato i Leviathan, che salutiamo e ringraziamo calorosamente perché sono stati troppo. Aspetti! No, io sono troppo contenta. No, cioè, è vero, scusate. Fermo quel microfono. Il suo microfono viaggia. Sì. E poi tra l'altro il tatuatore, il chitarrista era il tatuatore e ha fatto il lavoro meraviglioso. Ecco, purtroppo non mi ricordo il nome d'arte del tatuatore, però è stato forse tra i migliori a fare tatuaggi, secondo me, a mio avviso. Super old school, però bellissimo. E tra l'altro una cosa molto interessante è che questa volta, rispetto all'altra, c'erano i tatuatori che disegnavano direttamente a mano libera sulla pelle e poi dopo andavano con la macchinetta senza stencil. E è stato bello, io non l'avevo mai visto dal vivo farlo. Ma alla fine l'hai fatto o no? Tatuaggio, sì, l'ho fatto. Brava. Dopo ve lo faccio vedere. Metteremo la foto sul blog. Sì, immagini. Su Facebook, dopo. E ti tagghiamo. E ok. Quindi abbiamo detto Via del Leone, è andato così, poi... Beh, comunque non hanno suonato soltanto loro. Hanno suonato anche i Bullshit Idea, sempre, comunque sì, sottolineo concerti punk hardcore. Punk. E poi i DeLorean, che non so, c'era al posto del batterista ufficiale dei DeLorean c'era il batterista del Nido delle Vespe, che è un gruppo di Lucca, che a un certo punto hanno fatto una cover di Johnny B. Goode, di Chuck Berry, rivisitata, meravigliosa. E sì, e la giornata poi si è conclusa all'Emerson. Attenzione, altri concerti, lì musica New Wave, un gruppo anni 80, molto bravi, di Roma. Le colline del violette, le colline di violette. Bellissimo il concerto, secondo me è stato veramente molto bello. Davvero. Una domanda, ma New Wave, New Age, differenze? Oddio. Sapete? È seria secondo te la domanda? No, è seria perché... Ma la New Age è quella musica tipo fricchettona, allora, quella world music. Io so cos'è la New, New Wave. La New Age non lo so. New Wave è la nuova onda che nasce negli anni 80 fondamentalmente, sì. No? Con Sixties and the Banshees, Bauhaus e tutto quel filone. Sì. Grande, grazie. La New Age è quella roba fricchettona inascoltabile, le musiche rilassanti. Che a noi non piace, ci mandiamo un pezzo New Wave adesso. New Wave? Sì, New Wave sì, ve lo mandiamo. Dai. La New Age. Lo volevi New Age. New Age non lo possediamo. Continuate a parlare e lo trovo. Però si può trovare. Ci vuole del tempo. Comunque quella roba lì che accende gli incensi, boh, lo so, stai in una piscinetta. Sì, è quella roba lì, è quella roba. E fumi alla grande, ok. Poi preghi ogni tanto. È molto misto. Krishna, questa cosa qui. Sì, sì. Ho capito. Un miliardo di persone screditate. Tanto non ci ascoltano loro. Scusateci, su Radio Bomba. Sempre a scusarci. Ma la canzone dei Bauhaus, Bella Lugosi, la conoscete? Se non la trovi ora ce la canti a cappella. Ti immagini? Non lo farei mai. La conoscete o no? Io no. è un'intervista questa. Io no, tu? Io sì. E voi no, ma no, allora vi e faccio ascoltare quello. Da... E voi? Andiamo, mamma mia. Andiamo. Palle sul programma. Allora, e quindi niente, i Chiossi Ribelli ci siamo incartati, comunque andiamo avanti, super serata all'Emerson, il giorno dopo, sabato 3 giugno, invece ci siamo spostati in Viale Corsica, al fresco di quel giardinetto che è meraviglioso. Con le amache, con i workshop. Esatto, e i tatuatori. Di legateria, e di fumetto. Sottofondo. Sì, il puzzo di carne bruciata che... No, è vero. Gancia, insomma, però... Però super panini anche. I panini alla cecina... Incredibili. Punk rock 5-5. E hai presentato, hai partecipato alla presentazione che già ci avevi sì, di cui avevo già parlato precedentemente. Esatto, sì, avevi letto un estratto. Sì. No, l'estratto non era del libro che ho letto. Ho letto un estratto anche di quello. Mi sembrava, però forse no. Comunque la presentazione era... Sì, Terzite Rossi, il collettivo Terzite Rossi, che ha presentato il libro Signori della Cenere. I Signori della Cenere, esatto. Sì, sì, molto interessante, vabbè, ricordo un attimo. È praticamente un romanzo di inchiesta che vuole dimostrare che noi tutti siamo potremmo vivere sotto un governo differente da quello che, da un modello differente che ci propone appunto il capitalismo e la globalizzazione tutti i giorni, perché tra l'età del ferro, nell'età del ferro, già l'età del ferro, insomma, in culture ancestrali erano state ritrovate delle società all'interno delle quali non c'era alcun tipo di gerarchia e c'era parità sessuale maschile e femminile e una libera passionalità, insomma, no? E quindi queste società non volevano combattere, non avevano bisogno di combattere. E quindi niente, dimostrazione. E il libro è molto bello perché poi comunque tutta questa teoria che sembra molto pesante al momento, nel momento in cui la spiego, poi si andrà a sposare con tre storie di tre personaggi che vanno a simboleggiare i simboli della nostra società contemporanea. Quindi l'imprenditore di Wall Street che guadagna un sacco di soldi ma è scontento, e dicono che gli uomini di Wall Street in realtà non hanno coscienza nella vita che conducono, no? Sono gli uomini senza coscienza all'interno del libro. E poi invece c'è l'operaio che è scontento della sua vita e a un certo punto lo licenziano e ha bisogno di dare una svolta in qualche modo, e l'unico suo appiglio è tipo l'Inter, ok? La classica persona messo che... male. Esatto. E poi invece c'è la magica figura di... Se l'Albino Leffe era messo peggio. Sì, sì. Di questa ricercatrice universitaria che è brillante, conduce questo dottorato in antropologia, fa delle ricerche che si avvicinano troppo a questa teoria, viene scoperta e a un certo punto subentra, insomma, inizia la storia ed iniziano a compenetrarsi tutte e tre. Questa cosa è bellissima, secondo me. Ma che figata! No, fighissimo, leggete il libro, Terzite Rossi, Signori della Cenere. Tra l'altro, compenetrarsi è uno dei temi principali del porno. Di cosa? Ho sentito molti discorsi, discorsi sulla sessualità, sulla gilgamia, ho imparato un termine nuovo. Gilaniche, sono le società gilaniche. L'etimologia viene presa dalla parola greca che significa maschio e donna, e quindi sono delle società in cui l'uomo e la donna vivono al pari, totalmente. Invece che, per esempio, quella matriarcale che ci viene raccontata nelle società più antiche, e invece in contrapposizione con quella patriarcale che viviamo noi tutti i giorni, no? Certo. E tutto questo discorso alla fine poi lo riconduco tanto al concetto di solitudine che cerchiamo noi di spiegare con attraverso Ribellarti, sì, no? Sì. C'è anche quel discorso. Brava. Della differenza della sessualità, del sesso, della pratica sessuale. Della pratica sessuale. Che mentre nelle società, oddio, ora ho imprecisioni, però insomma, dopo è stato il sesso era strumento di potere, strumento politico, per cui il maschio alfa si prendeva quelle le donne migliori e lasciava gli altri, o comunque sia, il sesso era possesso. Vedi, mentre loro invece parlavano... nelle società gilamiche il sesso era uno strumento di condivisione, di appianamento, pacificazione dei conflitti. Sì, era quello che dovrebbe essere alla fine, no? Nel senso, stare bene con se stessi, viversi l'amore come una cosa libera, non una reclusione, cioè un amore libero però nel rispetto di tutte le persone che ci stanno intorno, no? Sì, il concetto di matrimonio ora come ora alla fine è stato dettato dalla società. Noi alla fine viviamo in Italia, quindi anche il peso della Chiesa nella nostra cultura è forte, non è come... Certo, sicuramente il retaggio cattolico ancora preme no? sul nostro E è per questo che anche a noi magari suonava strano sentir dire queste parole così dirette anche ieri, no? Però, cioè, se ci pensi bene può essere può far solo bene a te persona, penso, no? No, io se posso dire, secondo me il grande pregio di questo libro e questa presentazione, il libro non l'ho letto ma la presentazione è stata interessante, sono stati letti anche dei passaggi assolutamente piacevoli, interessanti, è quello di tentare di smontare una visione di inevitabilità della società capitalistica nella quale si tende tutti a pensare che non si possa che vivere vivendoci, cioè sembra essere naturale, immancabile. C'è un'alternativa, questo è il discorso e... Cioè, secondo me la parte più interessante è il dire alternative sono già state tentate e possono quindi essere tentate esatto. ancora. Penso possa valere parecchio in modo più ampio che sull'aspetto legato al sesso e per tante altre. Ma infatti è per questo che è un romanzo di inchiesta. Loro, a partire da un fatto veramente avvenuto, fanno un romanzo sopra per giocare, hanno detto, no? Che alla fine loro si volevano divertire in qualche modo, non certo. fare soltanto una ricerca, perché poi i due presentatori. In collettivo Terzite Rossi è formato da un professore, un uomo che si è laureato in filosofia, in lettere in filosofia, e invece un uomo che ha fatto scienza della comunicazione, capito? Quindi si sono uniti fondamentalmente e hanno visto che questo poteva andare avanti, no? E si sono stupiti. Mi hanno raccontato che prima hanno deciso di scrivere i libri e poi dopo, attraverso gli scritti che hanno fatto di economia e saggi, sono arrivati a scritti di antropologia e hanno trovato questa concezione. Loro si chiedevano perché. Cioè, perché non danno un'alternativa? Perché non la creano? Perché c'è stata la crisi nel 2008, no? Infatti il discorso di Wall Street è centrale all'interno del libro, no? La figura dell'uomo. Se posso dire tutta la smetto di parlare, no, io è che, secondo no, me è un po' forzato forse su questo sì, aspetto dai. E basta pensare che sia la scomparsa delle società gilaniche di 5.000 anni fa ad aver originato la crisi del 2008 di Wall Street. Infatti è un romanzo, cioè, infatti esatto. Cioè, comunque poi il pretesto è quello di raccontare una ricerca antropologica realmente avvenuta, si parlava di antropologi morti certo. pochi anni addietro sì. ancora viventi. Ci sono studi ancora in corso, questo è un primo tentativo anche di renderlo avvincente attraverso la forma romanzo, c'è del giallo, dell'avventura all'interno. Quindi noi insomma appoggiamo questa operazione al collettivo, invitiamo chiunque voglia ad approfondire e non a prendere qua da noi o negli altri spazi sociali i libri perché sono finiti tutti esatto, alla presentazione. E non di meno insomma Terzite Rossi, i signori della cenere. Molto bene. Penso sia arrivato il momento di fare un bagnetto. Un bagnetto nella canapa. Poi vi dico perché. Quindi tuffiamoci nel bagno della canapa, i matti delle giuncaie. faccio il bagno nella canapa, a volte non mi parlo e a volte canto. La la la la. Faccio il bagno nella canapa. Vento caldo sulla faccia, cielo rosso che minaccia. Malo vento, mi agito, mi foglio e mi tormento. E a volte soffro nella monica. Malo vento, faccio il bagno nella canapa. Malo vento. E rieccoci qua. T'ho visto, hai abbassato la velocità. Ah, cioè, il volume. Rifallo, rifallo. Aspetta, alzo un po'. Vai, vai, vai. Come baloccarsi on air. Davvero. Così va a metterla giusta. Così, con questo centrale. Ok, ok. Allora, sono rieccoci. Ciao Guido, sì, troppo veloce. Si alta, poi te urli. Come? O ti abbasso la musica o ti abbasso bacchettone, il bacchettone. Se vuoi pieno controllo dei mezzi di produzione di no, non voglio il pieno musica. Controllo dei mezzi di produzione. Lo lascio a tu. Vogliamo socializzarli. Esatto, capito. Bene. Ma infatti è diffusa. Allora, adesso manderemo un contributo che ci hai portato, Mario. Ah, sì, sì, sì. Di cosa grande. Ragiona? Cosa vi ho portato? Parlavamo di inchiostri belli. Fra le tante cose che sono successe, è successo che domenica sera sono arrivati tre amici che sono stati alla sagra del ranocchio di Brozzi a mangiare. Ah. E allora noi da Radio Wombat li abbiamo subito intercettati per chiedergli com'era questa sagra del ranocchio. La 46esima edizione? Credo sia la 43esima, non ti confondere. Vogliamo sentire? Ne parliamo comunque. Va bene, mando. Via. Sagra delle ranocchie. Qui... per Radio Wombat abbiamo i nostri inviati dalla sagra del ranocchio di Brozzi, da dove escono. Ora sono stati. Abbiamo Davide. Di cosa ci volete parlare? Com'è stata questa sagra? Dei ranocchi fritti vorremmo parlare. 7 euro, però nel dettaglio ne parlerà Davide. Sì. Porco Dio. Scusate. Io è stata una sagra importante, è stato Davide. Un momento profondo per tutti e tre i Davide, nonostante soprattutto per il terzo Davide. Il ranocchio è un'esperienza importante per le persone che bisognerebbe fare più spesso, non capita. Le persone bisognerebbe farle più spesso, in effetti. Anche le persone bisognerebbe farle più spesso, non le si fa così spesso. Comunque vogliamo sfatare il mito delle rane che sanno di pollo, e non è vero, perché le rane sanno di rana. Rana. Sanno è vero, sanno vagamente di pesce, ma più che altro di anfibio quadrupede, piccolo. Dottor Martins. anfibio da... sì. Da centro, sì. Centro sociale, insomma. Si può dire centro sociale? Si può dire. Benissimo, ringraziamo allora i nostri inviati. 34esima sagra. 43esima sagra del ranocchio di Brozzi. grazie. L'anno prossimo, fine maggio, inizio giugno. Sì, i primi di maggio, ricordatevelo, è pieno di belle persone. Di la particolarità sarà, ultimissima cosa, che il prossimo anno non sarà la 44esima edizione, ma sarà la 45esima. È una cosa particolare, la fanno soltanto a Brozzi, perché odiano proprio quel numero. La c'è la galleria. E chiudiamo sulla galleria. Galleria. Ma perché questo mix è un po' farlocco, devo dire. Galleria. A volte. È un po'. Oh, dacci una bella colonna sonora. Bravo. E mo lasciamo questo un era il contributo comunque. Comunque di nuovo... una fine degna per questo contributo. Esatto. Di nuovo scendiamo a livello Davide, qualitativo. Davide. E la sagra del Ranocchio. E sono i nostri rinviati. Rinviati, cioè quelli come a settembre. Ok, ragazzi. Proprio al pallone, tipo pam, la pedata e via. Ma è tornata Brigida? Non lo so. Sì, ci sono, scusate. Sì, va bene, grazie. Figurati. E... perché? Perché ci interessi? Perché, infatti, non lo so. Volete? Di cosa ci vuoi parlare? Io? Dai, allora, io parlo di musica oggi, basta. Libri, no? Pipponi. Ma certo. Io. Però mi piacciono un sacco, quindi salutiamo i Pipponi anche. Ciao Pipponi. Che ci ascoltano. Dai, c'è una cosa molto interessante. L'8 giugno, quindi fra 3 giorni, a Marina di Ravenna, al Beach Brewer, c'è un ottimo concerto. È da un mese che ce lo dici. Sì, però, arrivando, sì, infatti la canzone, arrivando. Però è proprio una canzone diversa, non quella che vi ho fatto ascoltare tipo tutte le 800 volte. Dai, di questo gruppo che si chiama Theosis, che in realtà non riesco, perché è scritto T-H-E-E-O-H-S-E-E-S, ok? E Theosis dovrebbe essere T-O-V-E-N-O, però O-T-I. Oh, esclamazione. Chissà chi ha detto alla fine. Penso mi ascolterò il podcast. Sì. Poi con Mix lo mandi più lento e senti cosa dice. Scusate, davvero. Vabbè, niente, questo è un gruppo californiano di San Francisco che si è... sì, California. Non ho detto niente. No, però ti ho visto. Hai recitato i Red Hot più che... È la prima formazione che hanno scelto, come primo nome della formazione che hanno scelto, era OCA, Orange County? Agency. Alligator. Ma Alligator. È county o county? America. Cioè, contea county? O paese? County, secondo county me. Sarà. County, Orange County. La contea arancione. Sì, sì. C'era anche una comunità di fricchetto hippie. Che cos'era? Sì, non ci volevi andare. Non lo so, c'era quella pessima serie televisiva, però. Ah, quella era successiva. Vabbè, scusa, prima non volevamo toglierti lo spazio. Io mi sono visto fino a che Melissa non è diventata lesbica. Bellissimo, no, dai, rompendomi per visto. Sempre il cuore e non dando più senso. Perché non l'hai continuato a vedere? Oh, Melissa lesbica, perdi ogni... Dai, devi aspettare almeno fin quando muore. Arriverà anche l'angolo delle serie. E riecco la curva della qualità che scende. Perché? Però sì, evidentemente. Va bene, torniamo in moto. Moti ondeggianti. Rialziamo. Moti ondeggianti. Secondo me possiamo ancora abbassare se ci mettiamo d'impegno comunque. Cosa facciamo? Possiamo abbassare ulteriormente se ci mettiamo. Ah, sì. Non c'è problema. Finire brick, l'ultimo picco di qualità che potremo avere. Mi sembra giusto. E poi sembra ci giusto. Lanciamo verso... Parlavamo di 8 giugno, Marina di Ravenna. Esatto, concerto Theosis, California, garage rock, post-punk. Quindi chitarra molto sporca, però sono molto bravi ragazzi. E ora infatti vi ho portato anche un pezzo che è abbastanza esemplificativo. Vero. Esemplare. Esplicativo. Neologismi, dai. E di un album che è del 2011 e la canzone si chiama Idea for Rubber Dog. Che vuol dire? Un'idea? Sì, dici ancora qualcos'altro giusto per darmi il tempo di... Va bene, no, all'8 è lo stesso giorno in realtà, poi ci sono altri concerti. Comunque è un festival che iniziava oggi e finisce il 9. E oltre a loro, lo stesso giorno, ci saranno The King... Gizzard and the Lizard Wizard, che è un altro gruppo molto carino da ascoltare, però io in realtà mi ero preparata di Theosis, questo me l'ero appuntato per me perché piacciono tanto. Quindi anche super a me. Weekend super no weekend. In realtà sì, poi lo dico perché appunto sottolineo che il festival è gratis, è sulla spiaggia, c'è la possibilità di dormire sulla spiaggia e quindi appunto, cioè il giorno dopo rimane lì per forza. Vai, no? Dopo torni a Firenze perché c'è il concerto, il rock, con, l'evento rock contro le nocività alla, nella, a Sesto, dove c'è il polo scientifico. Il polo scientifico. Poi dopo ne parliamo, semmai. Esatto. E l'11 c'è anche il mercato. Insomma. Dai, sì, la sera torni per canzone, forza. Questa canzone. Ce l'abbiamo? Idea for Rubber Dog, T.O.C. Fallisce così l'esperimento su Honda Regia. No, malissimo, malissimo. È Mix che fa così. No, ragazzi, sì, scusate, non è colpa mia. Dai, ci abbiamo provato. Passami il file che te lo mando io per favore, guarda. Just give me the night. Bisogna veramente... No. E cadde la chiavetta nel buco. Ma se io ripicio qua? Ho rotto tutto. Hai rotto tutto? L'ho ufficialmente rotto. No, hai rotto tutto per davvero. Allora, niente, siamo qui, erano siamo i Idea for Rubber Dog, i T.O.C., quindi dicevamo. Seas. Seas. Perché vi vedo. Al plurale. Voi. Vi sì. vedo voi. Sì. Ti vedo, ti, cioè, vi vedo, perché ti è ti. Eccolo, vedi? Ora di qualità. Grazie, caro. Vedi, sei tu il regista? Wombat. Chi te l'aveva detto? Wombat. Anche le citazioni di livello. Sì. Dai, vi è piaciuta un po'? Molto. Dai. Quindi niente. Concerti, musica, il Beach Brewer, Maria di Ravenna, da oggi fino all'8, all'8 giugno. E wiwa! Invece dicevamo che subito dopo, no, due giorni dopo, il 10 di giugno, sabato 10, sabato, si svolgerà un bel evento che punta a raccogliere tanti artisti per dire, affermare che non vogliamo nocività né, da nessuna parte. In particolare si parla dell'inceneritore e dell'aeroporto che vogliono piazzare in mezzo alla piana già sovrainquinata. Sì, abbastanza. Che c'è fra Sesto, Campi, Prato. E quindi appunto il 10 ci sarà questo super evento che coinvolge un sacco di artisti impegnati in questa lotta per la salute, per l'ecologia, per... Certo, anche perché in particolare tutte le mamme del quartiere si sono unite formando un collettivo per richiamare insomma questa, cioè, un comitato, sì, diciamo più un comitato, scusate, quasi un movimento, sono una quantità, sono incredibili, sono tantissimi. Esatto, no agli inceneritori, insomma, nocivi per i bambini, per le famiglie, per tutti in realtà, e queste cose uno ci dovrebbe pensare, soprattutto in questi momenti. L'allarme clima c'è e non dobbiamo scordarcene. Ma perché l'allarme clima, proprio l'allarme polveri sottili, l'allarme idrografico, nel costruire una ributta altro cemento nella piana, che è l'unico zona, diciamo, in cui resiste un po' di natura, c'è comunque un suo ecosistema, per quanto già molto surclassato da l'antropomorfizzazione del... Sì, io poi grande, me... sì. L'ho detto. Ci stavo, grande. La prossima è Pellicano. Però davvero, ho seguito anche numerose iniziative che hanno fatto in, presso la polveriera sul... il dissesto idrografico, certo, che già c'è e già causa in Italia incontri molte, urbanistica, smotta alluvioni, allagamenti, eccetera. E a maggior ragione con questi nuovi interventi dell'inceneritore e della pista dell'aeroporto nuovo, che andrà a tagliare la piana a metà. Insomma, c'è proprio un devastamento dal quale non si può poi tornare indietro. Quindi, insomma, vabbè, il perché per come 10, no, però guarda, questa sarà cosa un momento non di è... festa, sarà un momento di condivisione, di incontro fra tutti quelli che stanno da questa parte della barricata. Però la lotta contro questi mostri, queste grandi opere inutili e dannose, prosegue quotidianamente. C'è il presidio che hanno allestito, che il comitato, che l'assemblea per la piana contro le nocività, appunto, ha allestito un presidio laggiù a Sesto nella piana, che insomma è un baluardo dal quale si può resistere, può provare qualche resistenza contro queste mostruosità imposte dall'alto. Ora basta, mi sì, esatto. Poi le alternative esistono, voglio dire, anche l'opera quotidiana di chi denuncia tutto questo e anche proporre alternative sono in atto in città grandi, esistono, riescano. Inizi Firenze a fare la raccolta differenziata che da anni viene chiesta e ancora non avviata a dovere, e poi incineriscano la maiala di Somà, insomma. Detto fra noi, no appunto, poi la questione, appunto, che accennava anche Andrea, appunto, questa cosa è vero, sono grandi opere, comunque vanno a impattare però sul locale, e quindi mai prendere in considerazione il punto di vista di chi ci vive e di chi ci dovrà vivere, perché poi è anche questo l'imposizione, cioè ne abbiamo parlato quando era per la Val di Susa, e poi in realtà, anche se in modo differente, vale lo stesso principio anche qui nella piana fiorentina. E poi anche la questione proprio del territorio e della questione proprio il parco della piana di base ora è una delle questioni in cui si sono appigliati i costruttori, che fa schifo. Io non so se voi ci siete mai stati, se avete mai fatto una passeggiata, fa veramente schifo il parco della piana. E c'era già un progetto molto interessante anni fa, che poi invece è stato purtroppo abbandonato, e il progetto nuovo, che dovrebbe andare a combattere le emissioni che emetteranno inceneritore e aeroporto, poi in realtà è inconsistente, è veramente poco valido. E quindi no, poi torniamo ai discorsi che avete fatto voi, però ci tenevo a precisare queste due cose. A me ce lo sapere un po', ho visto in giro per la città vari i manifesti, dove c'è il programma, esatto, di artisti che suoneranno, è talmente lungo che ogni volta che passo in motorino non riesco a leggerlo tutto. Già abbiamo mandato un assaggio con i matti delle Giuncaie, il bagno di canapa, come si chiamava, di prima. Ci saranno i Diaframma, Fantasia Pura Italiana, i Matti delle Giuncaie, Etruschi from Lakota, Quarto Podere, Ptolemy's Brothers, The Etrurians, Ivan Oska, quindi già anzi dei nomi tra l'altro che noi abbiamo presentato plurime volte, Alessandro Lanzoni, che io vi dirò, non sapevo chi fosse, però sono andato a vedere, penso faccia musica classica, è molto famoso, quindi cioè un nome probabilmente importante, quindi viva. E con la partecipazione di Bobo Rondelli, che non manca mai per queste situazioni, ne siamo molto felici, e anche lui lo abbiamo mandato ampiamente. E quindi sabato 10 giugno dalle 18:30 al Polo Scientifico di Sesto, quindi proprio dove c'è la parte universitaria, a quel pratone che c'è davanti all'università, quindi non dalla parte del presidio ma dalla parte dell'università. Vabbè, poi chiaramente non c'è mai solo quello, non c'è mai solo il concerto la sera, ma ci sono stand gastronomici, c'è il mercato, artisti di strada, ci saranno sicuramente stand informativi dei vari comitati della Piana, a partire dalle mamme non genitori e tutto il resto. E niente, poi c'è anche zone per bambini, quindi insomma, una pacchia. Noi ci saremo, poi vediamo anche se riusciamo a fare qualcosa da riportare in radio, boh. Non facciamo promesse. Il contributo, anche se mi immagino che sarà presente Calma dal programma Passaggio a Nord-Ovest, che si occupa proprio di quello, delle lotte territoriali che si svolgono nella parte nord-ovest di Firenze, quindi tra Castello, Sesto, su di là. Su Tirol. Ok. Perché non c'è Lorenzo a tenerti a bada, ti fai un po' Parto io, partire. Se davvero fossi da solo qui, ciao, sarebbe una trasmissione assurda. Veramente assurda. Fantascienza Jugoslavia, Mi piace come descrizione. Senti, già che eravamo a parlare di programmi futuri. No, mandaci qualcosa, ciao, perché avevi detto che avevi qualche pezzo della gente sopracitata. Ah, sì, sì. Sì, io ero pronto invece però in realtà per fare il mio intervento di oggi. Oh. Allora, libero, sentiti. Senza allora, Lorenzo, per farvi capire di cosa parlo, vi mando una sigla. Non mi levare il mic. Parlerò di questo, vediamo se capite di cosa parlo. Oh, della Disney. Te lo sei già? Battaglia Guerra. Io non ci sono ancora. Ah, bello, bello. Ah sì? Non è Game of Thrones sta roba? Ok, ragazzi, sono pirati! Pirati! Le serie TV le farò io prossimamente. Questi sono pirati. Beh, i pirati sono meglio degli orchi. Sì. Di brutto. Tutta la vita pirati. E poi ho scelto come introduzione Becera, non la versione vera, ma questa versione questa versione elettronica. Dagli corpo. Non è male. Il povero Clint. Io ho già un pappagallo sulla spalla. Arro, posso vedere. Che tamarrata, la grande Guido, grande, evviva. Per fortuna il programma fa di nuovo le pizze. È solitario con me il programma. Meno male. Dai, video, dai. Niente, dammi un sottofondo tu. Ho levato il His Spirit, però remixato. No, dammi un sottofondo un po' Irish. Dammi un fondo Irish, dammi qualcosa. Avevo preparato Captain Kidd Black Sail. Ma ti sei rotto la serie, tutto? Ma non funziona mix, quindi ciao. Non ci vediamo più, ciao, manderò qualcosa di improvvisato. Mandami qualcosa di improvvisato, sì. Però non cambia la sostanza della questione. Allora, esattamente. Oggi vi parlo dei pirati. Però non... Lunga vita. Lunga vita ai pirati. Bravo. Buona. Allora, però non vi parlo dei pirati e basta, ma vi parlo di Libertalia. Sapete che cos'è? No. La Repubblica dei Pirati. Vi leggerò questa cosa che ho trovato, perché... Il quotidiano ufficiale. Come? Il quotidiano ufficiale dei pirati. Il quotidiano ufficiale, no. Studiando su vari saggi, uno l'ho letto, l'altro no, ma ne ho letti pezzi, ho trovato appunto l'esistenza di questa Libertalia, che era una repubblica di pirati, fondata da un prete, un pirata e un ufficiale francese. Aiuto, prete, malissimo, sembra una barzelletta. Il prete di origine italiana, peraltro. E, se ci inorgoglisce abbastanza. Ma, sì, parecchio. Però è interessante come proprio come discorso generale e come e poi invece come esempio, insomma, di socialità diverse, come dicevamo prima. Quindi vi leggo questo articolo lunghetto, ma non troppo, ma veramente veramente interessante. Quindi parto. Il Madagascar è una grossa isola dell'Oceano Indiano, situata proprio di fronte alla costa orientale del continente africano. È famosa soprattutto per la sua biodiversità, che lo ha reso uno dei principali paradisi naturali del mondo. A nord-est del Madagascar si trova la piccola Île Sainte-Marie, nota anche come Nosy Bora, un'isola lunga 60 km e larga 10. Oggi sia il Madagascar che l'isola di Santa Maria sono mete ambite dai turisti, specialmente dagli appassionati di immersioni e di whale watching. Eppure, fino a qualche secolo fa, queste isole erano strategicamente posizionate nel mezzo della rotta per le Indie orientali e attiravano sulle loro coste tropicali un tipo ben diverso di visitatori. Negli anni a cavallo, fra il 600 e il 700, infatti, il Madagascar fu scelto come base operativa da un gran numero di pirati, che erano soliti utilizzare la sua posizione strategica per insidiare le navi che tornavano dalle Indie orientali. Inoltre, da lì partivano anche i vascelli che andavano ad attaccare i navigli indiani del Gran Mogul diretti alla Mecca, carichi di pellegrini e di ricchezze. Capitani famosi come Henry Avery e Thomas Tew furono solo alcuni delle centinaia di pirati che si stabilirono in Madagascar. È stimato che una buona fetta della popolazione di Nosy Bora, che è appunto l'isola di cui stiamo parlando, abbia sangue europeo nelle vene, tangibile eredità dei matrimoni misti contratti dai pirati con gli indigeni dell'isola. Nell'Île Sainte-Marie, inoltre, è ancora possibile visitare un vecchio cimitero. Molte delle tombe presentano incisi sul marmo dei disegni inequivocabili, teschi e ossa incrociate, il Jolly Roger. Sono le vecchie lapidi dei pirati che lì hanno vissuto e lì sono morti. Giungiamo al dunque. Un'isola abitata da soli pirati e governata secondo le loro leggi e i loro costumi. Non c'è da stupirsi quindi che il Madagascar abbia sollecitato fin da subito la fantasia dell'opinione pubblica europea. Nel giro di pochi anni iniziarono a circolare numerose voci e leggende secondo cui i pirati del Madagascar avessero fondato un proprio stato. Uno stato con un governo repubblicano e democratico, in guerra contro il mondo intero, e tutto questo nell'epoca degli assolutismi monarchici. A questa nazione piratesca venne dato il nome di Libertalia. A parlarci di Libertalia è il capitano Charles Johnson, autore del libro A General History of Most Notorious Pirates, pubblicato a Londra nel 1724. È interessante notare come parte della critica odierna sia convinta che Charles Johnson non sia altro che uno pseudonimo dello scrittore Daniel Defoe. Oh. Daniel Defoe, grande appassionato di pirati, si dice anche amico di essi. Al di là del dibattito sulla reale identità del capitano, dobbiamo a lui la più completa descrizione di Libertalia. Johnson parla della fantomatica Repubblica dei Pirati solo pochi anni dopo la sua caduta e sembra utilizzare fonti di prima mano. Secondo il capitano, l'idea di trasformare un semplice covo di filibustieri in una repubblica piratesca venne al già citato Thomas Tew. Al francese Oliver Misson, quindi Thomas Tew, il pirata, Oliver Misson, il francese, il militare francese, e al misterioso prete italiano-dominicano Caraccioli. Ecco qui il misterioso prete. Questi tre personaggi sognarono, idearono e costruirono in Madagascar una cosa mai pensata prima. Ecco quali furono, secondo la General History of Most Notorious Pirates, quello che dicevo prima del Force Defoe, Pirates, giusto, le parole con cui Misson gettò le basi di Libertalia. Cito dunque: la nostra causa è una causa nobile, coraggiosa, giusta e limpida. È la causa della libertà. Vi consiglio come emblema una bandiera bianca con scritta la parola libertà, o se lo preferite, questo motto: per Dio e la libertà. Questa bandiera sarà l'emblema della nostra infallibile risoluzione. Gli uomini che sapranno prestare un orecchio attento al grido di libertà, libertà, libertà, saranno i cittadini d'onore. Per Dio e la libertà divenne dunque il motto dei pirati di Libertalia. Ora c'è Dio nel mezzo, mi rendo conto, però... Sì, ma io lo vedo più come un per Dio, però... la libertà! Tipo. È giusto, poi dobbiamo contestualizzare storicamente, chiaramente. Poi è come le intercettazioni, senza tono non si capisce. Per Dio e la libertà divenne dunque il motto dei pirati di Libertalia, che in contrasto col classico Jolly Roger nero, presero a issarne uno bianco. Quindi c'era comunque il Jolly Roger, cioè... il teschio con le due tibie, però bianco, nero su bianco invece che bianco su nero. Charles Johnson afferma anche che i seguaci di Misson e Caraccioli si governavano secondo un sistema repubblicano e democratico, eleggendo i propri rappresentanti secondo libere elezioni. I loro modelli, in tutto questo, cioè pensateci, colonizzazione, colonialismo in tutto il mondo, monarchia, il momento proprio massimo degli assolutismi, certo. Okay? E questo succede all'interno di questo contesto. Questi pirati si definivano liberi ed erano implacabili nemici di schiavisti e sovrani. Pur continuando ad assalire le navi, non erano più mossi dal desiderio di ricchezze, ma bensì da una sorta di voglia di riscatto sociale. I pirati in Libertalia volevano colpire le nazioni, le aristocrazie, la borghesia. Qui c'è anche un'immagine della morte accanto al nobile. Secondo la leggenda, l'esperienza in Libertalia durò solo 25 anni, poi solo, 25 anni non sono pochi. Il capitano Tew, ammiraglio della flotta pirata del Madagascar, abbandonò l'isola per tornare in America. Dopo che se ne fu andato, gli indigeni malgasci attaccarono la comunità, uccidendo caraccioli e quasi tutti i pirati. Quindi è andato via l'ammiraglio. No. Bona, purtroppo. Misson riuscì a fuggire con soli 45 compagni, ma fece il naufragio e scomparve. Il capitolo della General History of Most Notorious Pirates, dedicato alla Repubblica dei Pirati, si conclude così, con il naufragio di Oliver Mission, e la frase «Ecco tutta la storia di Libertalia». Non è ancora chiaro quale verità si celi dietro le parole del capitano Johnson, né se la Repubblica dei Pirati sia davvero esistita. Che il Madagascar fra il XVII e il XVIII secolo fosse abitato e popolato da un vasto numero di pirati è un dato storico assodato. Che questi pirati abbiano tentato in qualche modo di organizzarsi in società stabile è anch'esso un dato reale, perché sappiamo che i pirati, comunque, al di là di tutto, era una sorta di democrazia che galleggia, in cui ognuno aveva si votava il capitano e ci si ammutinava se non si era d'accordo perché il capitano era troppo dispotico. Era una sorta di democrazia. Peraltro ci sono un sacco di, e qui concludo, grazie tra l'altro per questa cosa, per questo sottofondo, ci sono un sacco di saggi, come per esempio All'ombra del Jolly Roger, dove si dice che i pirati in realtà siano stati una delle fonti rivoluzionarie di trasporto di idee rivoluzionarie più importanti della storia, perché essendo naviganti, essendo che si spostavano da un porto all'altro e potevano da una parte sentire e fare proprie delle idee che facevano parte di contesti culturali e sociali molto lontani fra di loro, dall'altra trasportarli. Sì, io gesticolo, sai. Assai. Quindi l'idea del pirata, che poi chiaramente insomma, non stiamo dicendo che i pirati sono tutti bellissimi, ma l'idea democratica e rivoluzionaria della nave pirata è assai affascinante. Scusa, sto facendo cascare tutto. Sì. Vedo. Quindi questa Libertalia è interessante perché se ne parla poco, se non in alcuni saggi. Però è uno degli esempi di alternativa di cui parlavamo prima, esatto. E di socialità e non solitudine. Nonostante la solitudine del mare, il mare spesso richiama questo, poi la ciurma, poi invece stare la ciurma. E quindi niente, ci stava un po' a pennello questa cosa, sì, mi sembrava. Decisamente. Libertalia. Comunque andatevi a cercare casomai La vita all'ombra del Jolly Roger, molto interessante. E poi ecco qua, le repubbliche dei pirati, dove io il saggio dove l'avevo letto, Corsari minori e rinnegati europei nel Mediterraneo, di Arkin Bay, molto interessante. L'altro invece che vi consiglio, La vita all'ombra del Jolly Roger, i pirati all'epoca d'oro, dell'epoca d'oro tra leggenda e realtà, e qui fa vedere appunto come loro siano dei mezzi e di diffusione di idee rivoluzionarie nel mondo. Wombat veramente. Ce l'ho una cosa io, posso? Mi dai il volume? Chissà che hai fatto. Buona, dai, un buon sottofondo. Chissà. Bella però. Buona, è roba buona, ragazzi, è roba buona. Non sono io che lo sto mandando. Sei grande Wombat. Mi sei aperto una pubblicità su YouTube, cosa è successo? sì. Non è male però. Volevo mettere questa, posso adesso? Non posso fidarmi mai. You are a pirate. Hey ho! Va avanti per 10 ore. You are a pirate. You're more fitter than me. Being a pirate is all right to be. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Do what you want. Finché non mi levi un volume, io vado così. Con questo sottofondo. Comunque a me è piaciuta la storia dei pirati, eh. Bella. Non avevo dubbi. Allora, che cosa ci vuoi leggere? No, io niente. Ah, cosa ci vuoi dire? Ah no, ci volevi dare solo un pezzo. Tocca a me? No, aspetta, non tocca a te. Non tocca a te finché... Finché? No. Morte non ci separi. No. Mi mancava. Tranello è questo. E allora dai. Chissà che cazzo ha detto. Los geht's. Los geht's. bambini persi. E vai. Niente male, niente male. Ciao Marco. Deduco che sta iniziando la rubrica a Maldonado non si guarda in bocca. Deduci bene. Deduco bene. Di cosa vi posso quindi parlare oggi? In realtà mi ero preparato una super rubrichina fatta bene per la settimana scorsa su Monaco. Caso volle che non giunsi in tempo. E fu così che non potei dirvi alcunché. Bellissimo. Noi possiamo tuttavia provare a recuperare con un po' di notiziuole dal mondo della Formula 1 di cosa è successo nelle ultime due settimane di assenza di questa rubrica. Voi intanto avete ovviamente visto i Gran Premi, soprattutto quello di Monaco. No. No? No? Sapete tuttavia chi ha vinto? Sono un cazzo ragazzi Schumacher. Qua. Schumacher. Non lo so, ma noi vogliamo questa rubrica proprio perché così ci aggiorni. Vi aggiorno allora, vi aggiorno su un po' di chicche. Non vi sto a raccontare che cosa è successo al Gran Premio di Monaco, non ancora. Però vi dico che cosa succede quella. Per esempio, si parlava della Force India. Vi ricordate la scuderia Force India? Sì, sì, sì, sì. Quella rosa, Vijay Mallya, quello indiano che l'hanno arrestato a Londra. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Il suo amico Roy è pure quello arrestato e quindi in India. Grande lotta legale adesso fra i due governi, quello indiano e quello inglese, perché gli indiani vogliono l'estradizione di questo Vijay Mallya. E sembra insomma la Force India non è che se la passa proprio bene bene bene, perché aspetta un compratore. Fra i tanti compratori spunta il nome di Bernie Eccleston, che è l'ex patron della Formula 1, quello basso, cattivissimo. Ti ricordi? È presente chi è? Sì, l'arcigno. Tutto. Bravo, lui stava insieme a quell'altro, non mi ricordo più come si chiama. Quello simile a Alvaro Vitali. Quello... sì, sì, quello che c'è anche di Alvaro Vitali, un po' più cattivo, con gli occhialini tondi, la faccia un po' aquilina, un po' più a morte nera, quel soggetto. Io vi giuro, G-Sport non lo guardo. No, nemmeno io, chissà che cos'è poi. E invece cos'è successo nel frattempo? Mentre lui sta pensando se acquistare la Force India... Nell'autodromo, nel cartodromo di Alonso è morto un ragazzino. Alonso si è fatto un cartodromo, cioè una pista da kart, Alonso, tipo nel cortile. Sembrava scusa, proprio quello. Cos'è? Puoi ridire la parola? Un non c'è cartodromo. È morto un bambino. No, è vero, scusate. No, scusate. È morto sui kart. È morto sui kart. Cavolo, si stava divertendo un sacco. Si è accartocciato. È morto facendo quello che amava. Okay, possiamo usare un po' di cinismo. Forse erano i genitori che lo spingevano a correre per farne un campioncino. Lui invece non voleva, non era il suo sogno, è stato costretto, era lì per rendere soddisfatti è i probabile, sogni dei direi, non solo possibile, e non di meno però, povero ragazzino. No, scusate, fosse mia... morto suo pai invece che lui. Comunque, andiamo oltre per favore. Per Toto Morti io ci aggiungo il nome del babbo del ragazzino del cartodromo. Ce l'hai con lui? No, era giusto. E la FIA insomma ha detto che comunque è sicuro, però la gente non ci vuole più correre. Hanno fatto altre due gare nel cartodromo di Alonso e sono andate deserte perché i genitori non hanno mandato i ragazzini. Alonso si stradiscolpa, dice comunque ragazzi il mio cartodromo è sicuro, cioè tutte le regole le rispetta, le vie di fuga, poi sono le corse, ci sta che uno si cappotta, i kart sono comunque scoperti, vanno a 2000, sono ragazzi di 6 anni. Cioè non è il cartodromo il problema, sono questa i è la risposta sé, di Alonso, è pure vero perché fra l'altro in Spagna ci sono tipo 30 cartodromi, corrono da tutte le parti. Alonso c'ha uno dei 5 cartodromi regolari, cioè quelli che rispettano tutte le regole. Quindi povero Alonso sotto la gogna mediatica per questa morte, però in realtà non è colpa sua. Alonso che fra l'altro se la sta pure a passare male, ma male male male nella sua McLaren, che veramente sembra essere proprio arrivato, cioè non ce la fa più. L'altro giorno, non alla gara di Monaco ma quella prima, in Spagna, a casa sua, deve fare la gara. Mentre sta facendo il giro di ricognizione, prima di disporsi la macchina si ferma, scoppia il motore, accosta, e che fa? Va a giocare a tennis, e passa il tempo là a giocare a tennis, non ce la fa più. La scorsa gara non ha corso Alonso, perché se n'è andata a fare la mille miglia, no, come se cosa è andata a fare, non me lo ricordo, comunque non ha vinto nemmeno lì, proprio è triste. Sta abbandonando? Al suo posto, sta aspettando una sfida vera, dice se il prossimo anno qualcuno di buono tipo la Ferrari mi piglia, io ci sto, e infatti sta a fare la corte alla Ferrari. Che però non è che proprio lo rivuole, mo c'ha Vettel, c'ha anche Raikkonen, sono messi bene. E perché parliamo comunque adesso di Alonso? Perché comunque al posto suo ha corso Button nel Gran Premio di Monaco, che vinse anche un mondiale con la Barr, fra l'altro, con la Brown GP anzi, e che si era ritirato l'anno scorso dandosi disponibile a fare il secondo pilota nel caso di bisogno. Ecco il bisogno che Alonso non corre più. E lui, super allenato, Button, che fa triathlon, è venuto a correre. Ha fatto una buona qualifica, poi gli hanno fatto un casino nella macchina, dopo cambiare il motore, è partito ultimo, dai box. Mi state seguendo, ragazzi? Io vi ti vedo sto seguendo, che io ti sto seguendo. È su. È partito dai box. Ce l'ho il volume, Andre? Qua? Ce l'hai. Sì, sì, perché c'è la comparsata di Alonso, che nel frattempo stava a correre e gli fa un team radio poco prima che parta. Ah, e tu c'hai questo team radio? Lo vogliamo sentire. Ma il sì, team radio? Dai, mi fuoca un sacco. Ci metto un attimo però a ritrovarlo. Nel frattempo avete capito da dove partiva Alonso? Dai box. Perché gli hanno Button. Perché gli hanno cambiato tutta la macchina. Dopo aver fatto la buona gara, dice vado un anno, una volta a Monaco, boom, parte ultimo. La domanda stupida, ma quanto sono lontani i box dalla griglia di partenza? No, sono proprio lì. Però sono lì. Ultimo, è come partì ultimo. Butta ma male. Più che ultimo, perché c'è anche il pezzettino di strada. Sì, per sì, rientrare. Ultimo più 4 secondi di scarto, cazzo, per ripigliare, metti una cosa del genere. Va bene, ha fatto un'impresa? No, a un certo punto ha provato pure a entrare dentro uno perché proprio non ce la faceva più a stare dietro. È entrato dentro a Verlaine, che è un pilota della Sauber. Ha provato a fare un sorpasso un po' azzardato in curva e la macchina di Vesalto si è proprio cappottata. E si è fatto così, col fianco si è appoggiato e c'è questo Verlaine che stava con la macchina inclinata a 90 gradi, capito? Boia. Cioè proprio vedevi boia il fianco, la faccia dentro alle gomme, che sono le cose di protezione, e non poteva uscire. E dai box gli fanno, ehi Verlaine, stai bene? E lui fa, sì sì, sto bene, solo che non posso uscire, stare meglio. Però maremma puttana. E comunque... c'era anche rischio per Verlaine, perché comunque aveva saltato le prime gare di questo mondiale. Se vi ricordate, l'avevo raccontato, a corso Giovinazzi, un pilota italiano, al posto suo. E lui aveva fatto un incidente mentre fa un gran premio spot, una di quelle cose pubblicitarie. Si era tutto cappottato, super danni alla schiena, aveva saltato i primi due gran premi. Aveva corso dopo tanti anni un italiano, Giovinazzi. Poi è tornato Verlaine, Giovinazzi è andato a casa, però nel frattempo la Ferrari gli sta facendo fare vari venerdì. Cioè il venerdì nelle prove libere lo fa correre, gli fa pigliare confidenza con la macchina, acquisire chilometri per acquistare poi la superlicenza, che serve per poi andare a correre in Formula 1, a tutti gli... insomma, ce la sta facendo, forse il prossimo anno possiamo anche vedere un pilota italiano. Pensiamo nella Haas, una scuderia che sta venendo motorizzata Ferrari, giovane scuderia americana. Comunque, questo audio in cui Alonso dice a Button qualcosa, hey, gli dice, proprio così, gli fa, ehi bro, grande, hai fatto una buona prova ieri, stai in forma, so sicuro che volevi sentire la mia voce, comunque mi raccomando, trattami bene la mia macchina. E Button risponde, ti piscio nella macchina. E adesso è in inglese, ma noi la sentiamo. Pronti? Via! Dai. Si sta aprendo con le C. Jenson, my friend, I'm sure you wanted to hear my voice before starting the race. Just wishing you the best of luck. We follow you here on television. You did amazing yesterday. So yeah, please have fun, thank you, my friend, and take care of my car. Okay, I'm gonna pee in your seat. Ti piscio sul sedile. No, please. Have fun. You did amazing. Cheers, yesterday, man. Amazing job. And you, buddy. Congratulations. And you, buddy. Have a good one. Ovviamente non gli ha portato fortuna, anzi, si dice che Alonso è un portasfiga pauroso. Lo sciamano di Oviedo lo chiamano nell'ambiente. Oviedo è la città di provenienza. Allora, con cosa vi lascio? Vi lascio con due aggiornamenti tecnici che abbiamo visto. Ah, comunque intanto ha vinto Vettel, ragazzi. Canzone di Button. Cos'è? Bella, bravo, bravo. Scusate. Bella, non era male canzone di Button. No, è successo che, già che ci siamo, una parentesi su cosa è successo a Monaco. Raikkonen ha fatto una super pole, ha dominato tutto il fine settimana, stava partendo primo. Monaco è una pista cittadina, l'avete presente, no? È quella stretta, sì, sì, non curva... si sorpassa. Bravo, quale curva dici? Non c'ha una curva anche mortale, forse, diciamo. Una... c'ha delle curve difficili. Difficile. È un rettilineo tutto dritto e poi c'è una curva in fondo. Quella lì. Allora quella io mi ricordo che quando giocavo a Formula 1 sul computer, quella curva era sul tremenda. Computer, no, parliamo... c'è una curva famosa che è la curva in cui la macchina deve fare praticamente 360 gradi. Quella dico io. È una curva famosa, ci sono approcci diversi al volante. C'è chi tiene tutte e due le mani e le incrocia, unica curva di tutto il mondiale in cui si incrociano le mani, che addirittura stacca la sinistra e curva solo con la destra. Oddio. Perché devi mandare tutto il volante da una parte. Sportiva, cioè, non avere il controllo di tutto il mezzo con tutte e due le mani in Sì, poi ci sono altri momenti in cui ogni tanto qualcuno fischia fuori, c'è gente morta annegata, in fiamme. Monaco ogni curva c'è morto. Beh, qualcuno, è pazzesco. A fare allora il rally lì, no? Pazzesco, no, Formula 1, Bri, il rally va nelle campagne. Anche la differenza. È su. Comunque ha vinto Vettel. Perché ha vinto Vettel? Perché ai box c'è stata questa strategia che ha penalizzato drasticamente Raikkonen, che era primo a favore di Vettel. È stata una manovra orchestrata veramente, sembra, dalla Ferrari per far vincere Vettel e far arrivare secondo Raikkonen. Comunque bella storia, una doppietta, una doppietta per la Ferrari, non male, però Raikkonen è infiammatissimo. Ricordiamo che Raikkonen è quello che tifiamo noi. Ok, ok, grazie. Ok. È andato dopo nei box, ha fatto una sfuriata, probabilmente sembra che tutto, voci di corridoio dicono che tutto è rientrato in ottica rinnovo per l'anno prossimo. Cioè gli hanno detto, mo quest'anno fai il secondo pilota, stai agile, tranquillo, ti fai quello un po' che si dice noi senza esagerare, e l'anno prossimo ti siedi alla macchina vincente e te la giochi. E si è calmato. Non si sa, non si sa. Vedremo come reagirà alle prossime gare, lo capiremo dai team race, in pista, l'aggressività che ci metterà. E questo è un po' la situazione. Hamilton intanto ha sbagliato i box, ha sbagliato la parte, le prove, è arrivato tipo settimo, ottavo. Quindi Vettel si fa Hamilton secondo. E gli aggiornamenti? Tanti, gli ultimi tempi, Ferrari e Mercedes. Ferrari ha stanziato su Ale Ali, che sono un tecnico. E prima? Ha cambiato la furia, che sarebbe quella c'è dietro l'alettone, sì, okay. Quest'anno. E come ce l'ha ora? Ce l'ha un po' più larga, alta e stondata in sostanza. Ha fatto più un ovale rispetto a una forma più rettangolare. È meno ergonomica così, forse. Teoria è di più, l'hanno fatta. Ingegneri sapranno, cazzo, esatto, io. Arrivo io, ma sappiamo scusa. Un cazzo noi. Allora, attenzione, Ferrari, la Brit dice che siano lei. No, quelli non vanno. Quella non che non sapeva la differenza tra il rally e la infatti, Formula 1. Per chi ci ascolta da Maranello, diciamo, ripensate a questa forma T-Wing, che a noi ci pare un po' meno aerodinamica di quella prima. Mentre la Mercedes, un nuovo muso, il fronte, ha cambiato tutto il fronte, un aggiornamento molto più grosso di quella Ferrari. Non sappiamo davvero se ha funzionato, perché c'è stato questo inconveniente di Hamilton. Lo capiremo nelle prossime gare. Intanto la rubrica di oggi è finita, e mentre Andrea non può mettere la base perché si sta girando le sigarette, io vi saluto qui da Radio Wombat. Wombat. Wombat. Quasi in tempo. Null auf 100 in 2 Sekunden. E adesso la lasciamo andare finché non mi giro tutta la sigaretta. No, dai, torniamo. Viva Maldonado. Lunga vita a Maldonado. Lunga vita a Schumacher. Sperando la più dignitosa di così. Ma... per favore. Okay, per favore. Dopo di ciò. Come sta? Molto bene, dopo questo carico. Qui io mi devo zittire per fare via. Ciao. Ok. Oh, è andato via. Oh, ciao Marco. Ora che è andato via possiamo parlarne male. Cioè, che palle sta roba. C'è chi piace e chi non piace. Ma d'altronde bisogna andare incontro a tutti i gusti. Anche su questo potremmo discutere. Ma insomma, tutti i gusti Summer Love. Visto tutti che si avvicina anche l'estate. Tutti i frutti. Ah, era tutti i frutti gusti, non era tutti i gusti. Abbiamo... visto che siamo in via di tutti i gusti. Siamo in chiusura. Abbiamo... ah. No, io volevo ricordare anche l'appuntamento mensile con il mercato in Santa Polonia. Certo, no. Non è vero che siamo in chiusura. Abbiamo un sacco di cose ancora da dire. Va bene. Anzi, io direi facciamo così. Mettiamo una canzone. Sì. Torniamo e poi ricordiamo un paio di appuntamenti e di notizie in più. Sì, sì, no, io poi ho altri due appuntamenti. Ma infatti, ragazzi, cinematografici. Qua in diretta con Radio Wombat fino alle 23:30. Dai. Andre. Mi incatena una coscienza senza di- paradosso dell'umano senza umanità. Un paradosso senza Epic Sky. Oscar, che ci hanno portato il loro nuovo album settimana scorsa, due settimane fa, e risentiremo domenica al, no, sabato alla Piana, sabato 10, 18 e 30, mentre dicevamo domenica 11, abbassa un po' il volume, domenica 11 in Santa Pollonia, mercato contadino e dell'artigianato, tutta la giornata, come ogni seconda domenica del mese, musica. Questo mese ci sarà una iniziativa molto interessante su incontreremo diverse realtà che si occupano di pedagogia alternativa, di istruzione libertaria, di scuola libertaria, diciamo, alternative di scuola. Di istruzione. E ci saranno anche, sono invitati dai genitori con i bambini, sarà allestito anche un'area gioco, un'area merenda e gioco per bambini, dove potrete slegarli tranquillamente e seguire l'iniziativa nel frattempo. Poi vabbè, come sempre ci sarà l'aperitivo, ci saranno i concerti serali, insomma una buona domenica. Non perdetevela. Fra l'altro ho saputo che domenica scorsa, mentre si svolgeva l'ultima giornata di Inchiostri Ribelli in Corsica, contemporaneamente in Piazza Tasso c'era un nuovo mercato che hanno organizzato, in cui credo si siano riuniti i vari produttori aderenti alla rete Genuino Clandestino, proprio per discutere ciò che era stato accennato al mercato in Santa Pollonia del mese scorso, ovvero della creazione di un nodo Genuino Clandestino proprio qua a Firenze. Quindi insomma seguiremo gli aggiornamenti e vi riporteremo, perché ci piacciono queste cose. Assolutamente. A tema, posso dire, a tema cinematografico? Ah sì, aggiornamento cinema. Aggiornamento cinematografico, oggi, stasera, peraltro, 5 giugno, stasera, cinema all'aperto allo studentato autogestito Ponte di Mezzo, proiezione di Capitan Fantastic, di cui parlammo verso la quinta, sesta puntata di Fuoco alle Polveri, ere fa. E mentre al CPA proiettano, sempre stasera, Thelma e Louise, un altro gran film. Strabello, strabello. Esatto, super bello. Thelma e Louise, sì. Molto carino. E quindi questi due appuntamenti cinematografici stasera potete scegliere. Entrambi CPA inizia alle 22, e mentre Capitan Fantastic Potere di Mezzo alle 21.30. Non ce la fate a vedere entrambi perché durano un po'. E siamo in chiusura reale, però con una nota... Sì, ci siamo lasciati in fondo una nota triste, una cosa che però teniamo. Poi direte qualcosa, Guido? Allora, sì, posso leggere il comunicato che poi è presente anche sul sito di Radio Wombat, su wombat.blogs.org, dove ci state sentendo in diretta, oppure dove state sentendo il podcast. È morto ieri Lorenzo Bargellini, che è un compagno, insomma... Leader storico del Movimento Lotta per la Casa, compagno di tante battaglie, sempre in piazza, sempre in prima linea, in prima... insomma... In prima linea, sì. E poi ha bisogno di poche presentazioni, penso, insomma, chi ci ascolta sa bene di chi stiamo parlando. Tanti l'hanno visto anche, fra l'altro, sabato sera. Anche a Chiostri Ribelli, nella serata all'Emerson, durante la presentazione di Attraverso, e poi... Nel corso della serata è stato lì con noi, presente fino all'ultimo. È successo che domenica pomeriggio è venuto a mancare per un malore, pensiamo un infarto. Ci saranno insomma notizie più sicure, ma non ci dovrebbero essere sorprese, ecco. Poche parole in più da dire. Abbiamo ripreso e messo sul blog alcuni interventi, alcune corrispondenze con compagni che gli erano molto vicino, che avevano condiviso molti momenti con lui, quindi li trovate sul blog. E niente, aggiungere soltanto, potremmo leggere il comunicato che il movimento di lotta per la casa ha deciso di condividere per salutarlo, insomma. Chi accompagni non muore mai. Lorenzo ci ha lasciati. Perdiamo un compagno come pochi. Firenze perde un pezzo di storia, una storia di parte che Lorenzo ha vissuto in tutti questi anni sulle barricate, sempre schierato dalla parte giusta, dalla parte degli ultimi. Dalla militanza rivoluzionaria degli anni 70 alle tante lotte per il diritto della casa. Sono migliaia le persone che hanno avuto la fortuna di conoscere il suo coraggio, la sua testardaggine, la sua straordinaria umanità. Lorenzo non si è mai fermato, neanche nei momenti e negli anni più difficili. Una vita intera dedicata a tenere alta la bandiera di un riscatto possibile, da conquistare sul campo. E l'insegnamento più importante che ci lascia è proprio questo. Contro l'ingiustizia di questo mondo non bastano le belle parole. E lui non si è mai accontentato di chiacchierare. Per lui non è mai stato il momento sbagliato per lottare. Il suo ricordo e il suo insegnamento sono beni preziosi di cui fare tutti tesoro. Fino all'ultimo respiro ha fatto di tutto perché il fuoco delle lotte non si spegnesse e non si spegnerà. In ogni picchetto, in ogni occupazione, dietro ad ogni barricata, resistendo alle cariche della polizia, continuando a sfidare questo mondo, Lorenzo continuerà a essere con noi in prima fila. Sei tranquillo, non è finita qui. Hasta la vittoria, compagniero. Aspettando chiarezza sul giorno dei funerali, ci prepariamo a dare a Lorenzo il saluto che si merita nelle strade e nelle piazze di Santa Croce, luoghi vissuti da Lorenzo tra mille scontri e battaglie. I compagni e le compagne della lotta per la casa e dei collettivi autonomi di Firenze. E ci mettiamo anche noi, né? Che sicuramente anche non mancheremo in questa giornata che sarà presto annunciata e a cui invitiamo a partecipare davvero quelle migliaia di persone che hanno avuto il piacere e l'onore di conoscerlo e condividere con lui delle lotte. Gli dedichiamo un pezzo in chiusura della nostra puntata di Fuoco alle Polveri, dedicandogli De André. Cosa abbiamo scelto? La cattiva strada. Ciao a tutte e tutti da Radio Wombat. Ciao Lorenzo Wombat. Wombat. Alla parata militare sputò negli occhi a un innocente e quando lui chiese perché, lui gli rispose questo è niente e adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì. Sulla sua cattiva strada. Sui viali dietro la stazione, rubò l'incasso a una regina. E quando lei gli disse come, lui le rispose forse meglio e come prima, forse è ora che io vada. E la regina lo seguì, col suo dolore lo seguì, sulla sua cattiva strada. Una notte senza luna truccò le stelle ad un pilota. Quando l'aeroplano cadde, lui disse: colpa di chi muore, comunque è meglio che io vada. Ed il pilota lo seguì, senza le stelle lo seguì. Sulla sua cattiva strada. A un diciottenne alcolizzato versò da bere ancora un poco e mentre quello lo guardava lui disse: amico, ci scommetto, stai per dirmi adesso è ora che io vada.